Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico. Ciao a tutti, siamo qua tornati per una nuova puntata del nostro podcast, Giochi sul nostro podcast. Questa sera siamo io, Fabio, Stefano e Federico. Ok, c'è un po' di lag, ma non è un lag... È mentale. Sì, perché... Va bene, detto questo... un saluto al mio amico Vai. Carlo Corvi, in arte differita. Lo chiamiamo così perché, tipo, insomma, gli facciamo una battuta, tutti ridiamo, lui sta zitto e dopo un po' ride della battuta e allora, insomma, l'abbiamo chiamato differita. Ma lui lo sa, quindi non è che c'è bisogno... di nasconderci dietro un dito. Adesso partiamo anche con le dediche. No, vabbè, mi piaceva questa cosa del lag, mi piaceva, allora mi è venuto in mente Carlo, lo volevo salutare. Va bene. A tema. Allora, oggi, cioè, oltre ad essere un po' sfasato, perché poi durante la puntata lo capirete anche voi, noi abbiamo parlato un po' prima e ci siamo resi conto che è un po' sfasato, ma oltre ad essere sfasato si è... a tirare fuori un tema per la puntata, cioè che è un qualche cosa che secondo me ci vuole una puntata per spiegare il tema. Comunque, diciamo che per quello che ho capito io del tema è, parliamo delle strategie, delle regole non scritte, meglio, delle regole non scritte che nascono dal giocare più volte gli stessi giochi, sì. E dal diciamo capire che dopo che hai giocato più volte lo stesso gioco capisci che certe strade sono indispensabili, certi tipi di mosse portano inevitabilmente alla sconfitta e quindi diventa un po' un patrimonio comune di tutti i giocatori, come dire, tutta una serie di mosse non si fanno. Come, non so, per gli scacchi, dire ok, l'apertura dei pedoni in fondo non ha un senso, quindi tutti aprono coi pedoni più o meno centrali, o non ha un senso che io scambio liberamente le torri con le alfieri e così via, per esempio. Quindi tutto questo fa sì che, come dire, il gioco si indirizza in una certa direzione. Non so se ho capito quello che volevi dire te, giusto? Sì, praticamente è un mix fra il metagame, che però viene considerato, diciamo, e il gioco emergente, cioè, dato una serie di regole, quali sono le mosse che solitamente vengono fatte e le mosse che solitamente vengono evitate per riuscire in quel gioco. Quindi si chiama gioco emergente, cioè una serie di regole che emergono data una quantità più ristretta di regole che sono quelle proprie del gioco. E si differenzia un pochettino dal metagame, perché il metagame è fondamentalmente le regole che si creano pian pianino all'interno di un gruppo di giocatori, che però non necessariamente sono regole che sono a favore della strategia, nel senso che magari molte il metagame di un determinato gruppo di gioco ti consente, che ne so, di trattare determinati comportamenti al di fuori del gioco. Per esempio, fare degli scambi di denaro per evitare di subire una sfiga in un gioco. Quindi io ho in mano questa sfiga, la devo assegnare a qualcuno. Per esempio, sto giocando a Lords of Waterdeep e uso una carta influenza per rubare una risorsa a qualcuno, e magari nel mio ristretto gruppo di gioco si possono fare delle offerte per evitare di subire questa sfiga. Questo è metagame, cioè queste sono piccole regole che si possono applicare all'interno di un gruppo. Le quali ti assicuro che non ho mai sperimentato questi metagame. Era un esempio, cioè, io magari sto aspettando... proprio il contrario, anche quello è un metagame, cioè il fatto che non si possa fare è una forma di metagame, nel senso che nel momento in cui si dice pezzo toccato, pezzo mosso, cioè nel tuo gruppo si fa così: se tu tocchi il pezzo, quel pezzo muovi. E nel mio gruppo invece magari c'è anche la possibilità di fare mela Z, e quindi nel mio metagame è un metagame più rilassato, e quindi posso fare mela Z, che sarebbe quello che si chiama control Z, insomma, torna indietro. No, vabbè, sì, ma diciamo che... volevo sapere, Federico, quanto ci metterai a parlare. Stefano, t'ho perso, non ti sento più. Ok, niente. Stefano, io l'ho perso, tu lo senti? Sì, anch'io, no, l'ho perso anch'io. Niente, insistiamo noi, ti dicevo che Praticamente il l'aggiornamento si infila un po' nel fatto che quando giochi, come dire, no, mi sono perso con Stefano, mi sono perso. Vediamo se lo ripigliamo. Sì. No, mi sa che c'è un problema proprio di linea. Quindi, ecco, allora, riprendiamo da capo. Quindi, metagame è la serie di regole che si applicano all'interno di un gruppo. Invece il gioco emergente sono quella serie di regole che vengono stimolate direttamente dal gioco. Cioè il gioco ti invita a giocare in una certa maniera. Ma guarda che questo tema qua, secondo me, può avere attinenza anche con un discorso legato a come ogni gruppo imposta la competitività. Diciamo che io faccio un paio di esempi pratici. Cioè un esempio è quello di una persona, di un giocatore che conosco, che adesso non cito perché mi sembrerebbe cattivo. In occasione, facciamo una partita a un gioco, è la prima partita, spiego un pochino le regole del gioco e giochiamo tutti fino adesso il fondo, no? Arriviamo più o meno all'ultimo paio di turni e a quel punto ci si pone il dubbio su quali possono essere i tiebreaker, cosa che nella fase di spiegazione delle regole non era uscita, no? A un certo punto allora siamo proprio all'ultimo giro, esce fuori questo tiebreaker. Effettivamente mi ho dimenticato che quattro fragole equivalgono a un punto. Allora questo insorge, cioè poteva quasi alzarsi anche in piedi e dice: no, cioè a questo punto abbiamo giocato tutta la partita e le fragole non contavano. Cioè, una roba tipo che poteva finire tipo 2007 a 1800 la partita. Sì. No, allora a questo punto, cioè, no, le fragole non contano, perché tu non hai detto che quattro fragole valgono un punto e quindi non si può applicare, cioè roba di quel tipo. Significa, come dire, essere easy dall'aspetto proprio ultra competitivo del titolo, no? No, vabbè, cioè, allora innanzitutto il discorso va fatto così: se parliamo di gioco emergente dobbiamo parlare sicuramente di gioco ripetuto. Cioè, nel momento in cui io faccio la prima partita non si può parlare di gioco emergente, perché è chiaro che ci stiamo già acclimatando solamente alle regole e non posso già, non siamo ancora caduti nelle trappole del gioco, per cui, che ne so, se compro troppo di questa risorsa al primo turno poi non ho i soldi per pagare gli omini e mi muoiono gli omini. Un esempio, però quella lì è quella che chiamiamo adesso emergenza del gioco, invece emergenza tra virgolette del gruppo. Cioè, il metagame, tu hai un gruppo con tipo due competitivi, questa cosa uscirà in tutti i giochi. Cioè, è difficile con persone di con quelle facce da gioco lì, per riprendere un po' un filone di articoli, è difficile riuscire a impostare delle partite tra virgolette rilassate o anche solo delle partite diciamo esplorative. Io avevo un amico che assolutamente, cioè semplicemente si impiantava da analysis paralysis nelle primissime partite, sempre, perché pensava già alla metà della prima partita, cioè prima di iniziare la prima partita era già lì a pensare cosa sarebbe successo metodo di controllo del metodo sperimentale. Istruzioni per l'uso per questo tipo di soggetti. Chiarire le cose da subito, cioè nel momento in cui facciamo una partita a un nuovo gioco, diciamo: ok ragazzi, questa partita la possiamo anche scazzare, nel senso che chi vince questa partita probabilmente lo farà più o meno a culo, o comunque non gli sarà riconosciuta una vittoria completa, nel senso che andiamo un po' a intuito senza farci prendere troppo dalla competitività, e poi magari ne faremo una seconda se proprio, cioè quando abbiamo capito, abbiamo fatto una partita fino in fondo, perché tanto, voglio dire, un gioco, soprattutto i German, ne vedi le sfumature alla fine, al conteggio dei punti, a meno che non sia uno di quei giochi che hanno il conteggio dei punti a metà, tipo a un terzo, a due terzi e poi alla fine, per cui magari al primo terzo già capisci: ah, vedi, ecco perché tutti compravano quella cosa lì e io non l'ho comprata perché avete fatto i punti e io no. E a meno che non succedano, cioè non ci siano giochi fatti come questi, che io adoro, fra parentesi, alla fine capisci le sfumature che hanno portato magari una persona a vincere, oppure magari l'importanza di una determinata azione piuttosto che Però un'altra. guarda che l'uomo analysis paralysis in genere non è Vuole proprio in craccare grado. il codice. Sì, ma lo vuol creare, ma il suo problema è che, come ti ho detto, non è del metodo sperimentale. Cioè, è proprio Esatto. un giocatore che dice: io cioè in astratto leggo le regole, ci penso tantissimo sopra e Sì, dovrei sì, sì. essere subito in grado di capire come gira il gioco. L'approccio puzzle, cioè l'approccio devo risolvere il gioco prima di cominciare a giocarci, perché tanto le Ma è informazioni sul gioco peggio, ce le ho lì. perché l'approccio puzzle, cioè, l'analisi paralysis è la persona che prende il puzzle, cioè, il puzzle lo sparge tutto sul tavolo, pensa ore tutti i pezzi del puzzle, bene, adesso comincia a mettere insieme, perché so già dove mettere l'80% dei pezzi. Questo è l'uomo analisi paralysis. Sì, sicuramente ci sono dei giochi che sono più proni a questo tipo di analisi paralisi, ovvero quelli che hanno come dire, un orizzonte temporale molto distante. Cosa intendo per orizzonte temporale? Cioè, quante azioni posso in avanti posso calcolare senza che le azioni dei miei giocatori avversari mi mettano delle diramazioni, delle possibilità. Cioè, nel momento in cui io comincio a fare un'analisi, posso decidere di fare una strategia finché poi però non arriva o una carenza di informazioni, quindi non so cosa c'è sotto quel mazzo e quindi quell'informazione non la posso mettere in conto, oppure dico ok, devo cominciare subito a fare quello che si chiama il branching, cioè la diramazione delle possibilità, perché a seguito della mia mossa c'è subito la mossa di Stefano e poi c'è la mossa di Fabio e non posso, e quindi ti si dirama talmente tanto Ma tu sei un buono, l'albero. tu secondo me nel tuo gruppo non ce l'hai i veri analisi paralisi. No, perché, cioè, tu in sostanza gli stai dando una giustificazione a sto uomo. Cioè, gli stai dicendo: beh, in fin dei conti c'è successo un evento nuovo, lui deve poterci riflettere sopra. No, cioè, il problema dell'analisi paralisi è quella che più tempo gli dai, più ne prenderebbe. Vabbè, ma tanto prima o poi dovrà fermarsi rendendosi conto che ha messo in conto tutte le informazioni che ha a disposizione e tutti gli eventuali possibili scenari. È No, per questo che ma è. dico che un gioco più meno Nel frattempo c'è. Nel orizzonte frattempo di fai un secondo proiezione. gioco, fai. Ma va bene, io lo capisco. Guarda, io se c'è una persona intuitiva, cioè che va intuito nei giochi, sono sicuramente io. Io finché un gioco non ci ho giocato 10 volte, per me il concetto di giocare bene è anche un po' labile, nel senso che io la vittoria flash al primo gioco che mi hai spiegato subito, ma proprio non c'è possibilità che io la faccia, perché non me ne frega, cioè, ma proprio perché non me ne frega, cioè perché è più un rapporto che ho io col gioco, cioè di dire vabbè, faccio sta cosa qui che mi sembra intuitiva, vediamo che cosa succede fuori. Ed è un po' un dialogo che ho con il gioco e anche con gli altri giocatori, i quali giocando anche un po' mi insegnano come si gioca. Quindi io analizzo quello che fanno loro, metto in conto quello che mi piacerebbe fare a me, cerco di essere un po' a zig quando gli altri sono a zag, ma cosa che mi riesce poi anche il giusto. E quindi è proprio veramente un dialogo che quello che ho con i giocatori e anche con il gioco, cioè è un po' come se mi sedessi di fianco il game designer e gli dico: senti, ma te l'hai provata questa strategia qui, vediamo cosa succede. E il game designer, sotto forma di regole di gioco, mi risponde dicendo: guarda che sì, vabbè, sta strategia qui, però forse non hai preso in considerazione quest'altra meccanica del gioco che ti avevo messo, te l'ha spiegata prima Fabio, ma forse te la sei un po' dimenticata. È così, è così. E vabbè, se vuoi, allora io l'avevo proposto questa cosa del gioco emergente, ma per me va bene anche continuare su questa falsa riga dell'analisi paralisi e del rapporto che si ha con i No, ma giochi tanto cioè, non è che siamo in prima vincolati istanza. a niente di particolare, nel senso Ma che io ho un Oh, aneddoto, redivivo, un aneddoto. Stefano, sei Sì, tornato. sono tornato, sì. Io ho un aneddoto, credo più o meno su questo argomento. Perché praticamente giocando con il mio gruppo di tedeschi abbiamo giocato a Port Royal, che sarebbe Sì, quel Ender del carino. Caribic. Sì, sì, sì, Ender del sì. Caribic. Abbiamo giocato Ok, allora Ender. l'abbiamo giocato con Schacht, Michel Schacht, Sì, il sì. designer, no? Allora lo giochiamo e lui, finiamo, dice: ma vabbè, guarda un po' interdetto, no? Fa, ah, questo ha vinto un premio. Fa, sì, boh, ha vinto il premio lì in Austria, boh. Ma, vabbè. E fa, è così un po'. Io ho detto, vabbè, non gli piacerà il gioco, che ne so, chi lo sa. E, la, e c'era questo tizio che continuava a dire, vabbè, giochiamo ancora, abbiamo giocato 2 o 3 volte. E lui sempre giocava. A un certo punto fa, ma a parte la strategia delle sciabole, c'è qualcos'altro che si può fare in questo gioco? Perché quello che intendeva lui, e in effetti poi dopo che ce l'ha detto, abbiamo fatto una partita per vedere se era vero, giocando tutti la stessa strategia, no? Per vedere se effettivamente aveva ragione. Ora, non so se, vabbè, penso che voi due, ad esempio, l'avete giocato, no? Tu hai fatto anche il video tutorial, Fabio. Un gran numero di partite e ti assicuro che la strategia delle sciabole non funziona. Lui invece è convintissimo che in realtà diciamo che la sciabola, cioè la carta che ti dà la sciabola ti dà, oltre a dei punti, anche un vantaggio superiore a qualsiasi altra carta. No, assolutamente, lui. Nel senso che le carte che spezzano, se vuoi, sono, cioè la carta, quella mi sembra che il governatore, mm-hmm. e ti dà la possibilità di prendere 2 carte invece che una a ogni giro. Quella è una carta che spezza. Quindi una delle cose che è una delle strategie che sono uscite quasi subito è quella di cercare i primi turni di mettere via subito, cioè appena esce una carta da 2 o da 3 chiappi subito i soldi, aumenti il denaro a disposizione, speri che ti esca o quella o una delle carte più forti di bonus, punto. Ma ti dico che io quel gioco lì con, cioè, vogliamo spiegare un po' così, giusto, sì, ampie linee, sì, di cosa stiamo parlando, perché no, allora, cioè, Port Royale va bene, che ne abbiamo giochino... parlato e tutto, allora, quanto, Port Royale è la nuova edizione di 100 Caribic, che è un gioco che mi faccio un punto d'onore di aver scoperto proprio a culo, perché ci sono passato, sì, davanti, sì, è vero. D'aver scoperto a Essen. L'ho scoperto poi da buon ligure, perché costava 5 euro, era un gioco di 110 carte, costava 5 euro e aveva un'ottima grafica, perché poi la grafica in realtà l'ha fatta un disegnatore che è quello che illustra anche che ha illustrato anche bene altri giochi. Clemens, esatto. Quindi costava così poco semplicemente perché era prodotto dal Museo Austriaco del Gioco da Tavolo, quindi senza fine di lucro in sostanza. L'abbiamo giocato, è un gioco molto molto semplice, è un push or luck, con una meccanica proprio semplice, cioè... Sì, è piuttosto semplice, cioè tu giri delle carte. 7.5, cioè gira la carta e vedi quando sbagli. Ma però lì dentro ha questa meccanica semplice, perché la meccanica di base è quella che tu giri carte, no? Se nell'uscire le carte ci sono delle carte nave in mezzo alle varie carte, e se tu tiri fuori, cioè ci sono 5 tipi diversi di nave, se tu riesci a far uscire almeno 4 tipi diversi di nave, invece che una carta sola, ne puoi prendere 2 in quel giro lì. Se te la giochi fino a che non escono 3 tipi diversi di nave, allora, cioè, se escono tutti i tipi di nave esistenti, prendi 3 carte invece che una o 2. Quindi, cioè, il meccanismo di base è molto semplice. Però, se fosse solo questo, sarebbe un gioco scemo, punto. La bellezza è che ci hanno messo dentro che le varie carte che tu puoi prendere ti possono dare denaro, oppure sono dei personaggi che ti potenziano. Quindi, sono dei personaggi che ti permettono di sconfiggere certe carte nave. Quindi, quando esce la seconda carta, magari tu la sconfiggi. Ci sono dei personaggi che ti permettono di pescare più carte. Cioè, hanno costruito su un push or luck semplice anche un meccanismo di microgestionalità, come mi piace chiamare. Secondo me piacerebbe a Paolo questo qui, perché è il classico gioco meccanica base più combo delle carte, che Paolo è, sì, è bravino. Paolo Mori, intendo. Sì, ma lo so che quando parli di Paolo parli della tua anima gemella lì. No, assolutamente. Lo considero probabilmente, cioè, io personalmente, secondo me è il miglior game designer italiano. Poi con questa dichiarazione mi farò nemico molti altri miei amici game designer, però insomma sicuramente non nel fare giochi non è la mia anima gemella, anzi facciamo giochi, cioè implementiamo giochi molto molto diversi. No, comunque ti dico effettivamente, se lui, concordo sul fatto che soprattutto in questo periodo è molto molto sugli scudi e molto molto in gamba, e comunque, a parte questa parentesi, ti dico, è un gioco che effettivamente poi abbiamo provato in diversi e è piaciuto. Io dovrei averci giocato a braccio una 50ina di partite. Mm-hmm. E ti assicuro che, no, vabbè, ma te valuta che, cioè, quello lì è un titolo che normalmente lo usi come filler. Se lo usi come filler, se ne fai 7, 8, 10. Se invece ti capita che una serata ti metti lì, come è successo a me, mi sono messo con mia moglie a giocare, mi è successo 3 o 4 volte, metti lì a giocare, dici giochiamo a questo, cioè tipo a fine serata hai fatto 4-3, 5-4, cioè hai fatto 7-8 partite, perché poi sono quelle partite veloci, no? Quindi una tira l'altra. Ed è un po' come giocare ai giochi di carte normali, non so, tipo il 3-7, il mariaggio, quei giochi un po' di carte standard, nei quali la serata la fai al meglio delle 3 o delle 5 o delle 7 partite. E la stessa cosa vale per lui, cioè crei te, come diceva Federico, che hai una sorta di metagioco, no? Sì. Lì c'è un metagioco, cioè lì c'è tipo, che ne so, so che Fabio gli piacciono queste cose qui, quindi tipo gli piace ad esempio prendere queste carte qui, allora diamogli addosso quando ci sono queste carte qui, si può fare? No, cioè si può sviluppare, sì, perché tutto sommato, cioè quando tu vedi magari, non so, ci sono delle carte che sai che l'avversario utilizza bene, piuttosto sballi, piuttosto che potergli far comprare. Sì. E questo può succedere, ecco. Ma poi tieni conto che comunque è un gioco che, quello l'ho giocato spesso con la moglie, e con lei c'è una sorta di, come, ecco, vedi che sta uscendo il tuo tema del gioco, del metagame, o quello che è, del gioco con lei c'è una regola non scritta che la competitività deve rimanere a un livello accettabile. Sì. Cioè, io posso costruirmi tutti i motori che voglio, produttivi, economici, eccetera, eccetera, mentre è molto meno gradito quando vado a distruggere a colpire il suo motore. Esatto. Cioè, il problema è che io, a questo punto diventa una scelta del titolo. Cioè, devi scegliere dei titoli a bassa interazione. Nel senso che se sono dei titoli a forte interazione, poi dici che cacchio giochi a fare se non puoi interagire. Non so se mi spiego. Però adesso, combinazione, è che è un periodo che veramente ne stanno uscendo a vagonate di giochi a bassa interazione. Vuole così, fra parentesi, a me mi fanno cagare. Cioè, i giochi a bassa interazione, a sto punto, cioè, fatti un videogioco, insomma, te lo fai per i fatti tuoi. Non so se intendi quelli, però insomma, se semplicemente io mi faccio il mio orticello, tu ti fai il tuo orticello, vediamo chi c'ha l'orticello più bello, cioè, piuttosto gioca a Farmville. Ma guarda, ad esempio, ce ne sono tanti così, perché cioè, tu ad esempio il nuovo Splendor è un esempio di bassissima interazione, no? Perché insomma non è che è abbastanza bassa, però in realtà c'è l'interazione che c'è in Ticket to Ride senza le tratte, quindi aspetta, Ticket to Ride è un po' stronzetto, Ticket to Ride, ti inculo soltanto perché c'è la mappa, perché se non ci fosse la mappa, c'è la mappa e le carte che prendi all'altro, insomma, che tu prendi magari in counter drafting, detta molto in termini tecnici. Ma guarda che Ticket to Ride, cioè io ci ho giocato tante partite sempre con la moglie e certe cose mi sono state proibite, addirittura. Cioè, no, perché cioè tu vedi palesemente, cioè se uno fa un gioco più rilassato, vedi che tizio deve andare, che so, a seconda della mappa che usi, deve andare da Roma a Berlino, per modo di dire. Certo. In mezzo c'è una tratta da due, a me non mi serve un cacchio, la faccio solo per troncargliela. Chiaro, sì, chiaramente. Sì. Punto. Ecco, questo è anche un altro esempio, perché non c'è scritto da nessuna parte che tu devi farla, ma la fai perché... Sì, perché ne metti due punti e quell'altro so che gli dà una penalità perché gli rimane obiettivo. Sì, esatto, cioè sì, non te ne frega niente in realtà di avere quei punti lì e magari perdi un turno dove avresti potuto fare più così punti. Come, però... non so, un gioco, se vai a vedere, scemo, come base, però è un gioco molto bellino, è Carcassonne, no? E Carcassonne, la maggior parte delle persone, quello che proponi, ti dice, vabbè, questo qua è un puzzle, cioè... Non è un caso anche... solo per l'informazione incompleta che hai del fatto che non sai che tessere pescherai. Allora, io l'ho giocato, cioè è uno dei pochissimi giochi per i quali ho partecipato a un torneo, ok? E giocato nel torneo è veramente bastardo, Cioè, certo. È veramente bastardo perché cioè, non giochi più per fare i punti te, giochi per bloccare l'avversario, per fermargli, per fare in modo tale che... di incastrargli le tessere, giochi per portargli via le città, cioè è un gioco molto aggressivo potenzialmente. Poi è chiaro che c'è una quoziente di fortuna, cioè non è gli scacchi, tanto per essere chiari, bisogna averci anche un po' di spirito così, ma è un gioco che ha la potenzialità di essere molto interattivo, più di quanto non si immagini. E Splendor, anche lì, dipende da quante partite giochi, perché poi qui partirebbe poi tutto un filone che riguarda anche noi, molto noi, perché noi siamo di quelli che guardano un sacco di titoli e quindi si fermano poco a giocare ognuno. Sì, Splendor, certo. Splendor Combinazione è un altro gioco che ho giocato una ventina di partite. E la cosa che ti dico di Splendor è che anche quello ha degli aspetti che possono essere potenzialmente molto interattivi, cioè tu vedi che l'avversario sta giocando perché vuole fare un paio di carte di un certo tipo, tu a un certo punto al tuo turno gliela porti via, appunto, cioè prendi quella carta, sacrifichi praticamente un turno, perché tu per prenotare la carta e prendere il jolly, no? Tu semplicemente gli freghi a lui la sua carta obiettivo, lui ti guarda e ti odia. Cioè tu devi capirlo, è chiaro, cioè a questo punto significa che non stai massimizzando il tuo gioco, giochi anche per dar noia agli altri. Scusa un attimo, ma Splendor non è un gioco per due? No. Quindi anche per tre o per quattro, sì. Sì. Quindi, però io l'ho giocato molto anche quello. Però tu sei influenzato dal fatto che se ci giochi in due si crea una sorta di cortocircuito, per cui una mossa che danneggia gli avversari, che però in questo caso è uno, ha la stessa potenza di una mossa che avvantaggia te. Al contrario, molto spesso nei giochi dove ci sono 3, 4, 5 avversari invece che solamente uno, quindi insomma ci sono 3, 4 giocatori, una mossa che danneggia un singolo giocatore non è la tua mossa ideale, perché la somma non fa zero, insomma. Guarda, io ti dico questo, l'ultima volta che abbiamo giocato in più giocatori abbiamo dimenticato, tra virgolette, di fare quello. Cioè, o meglio, eravamo in quattro, in tre ci guardavamo intensamente e prendevamo, praticamente si cercava ognuno, avendo la possibilità di scegliere, di prendere sul tavolo la carta non solo che dava più favore a noi, ma che dava noia agli altri, perché in pratica eravamo in tre che correvamo per prendere le tessere nobili, quelle che ti vengono attribuite se hai costruito un set di carte di certi colori. Quindi c'era proprio una lotta diretta e ci si fregavano le carte. Proprio, magari non lo so, io avevo già i tre verdi che mi servivano, però ho visto che agli altri gli mancavano, allora io pur di dargli noia gli porto via il quarto verde, che magari mi serve per qualcos'altro. E questo ci siamo marcati. L'unica cosa che nel marcarci noi tre abbiamo dimenticato di guardare il quarto, che ha vinto allegramente la partita con una tattica diversa. In realtà però molti giochi a 4, da 3 o 4 o 5 giocatori li puoi tranquillamente giocare come se fosse in due, se c'è un'informazione completa nel punteggio attuale. Quindi se tu sai già che informazione completa, infatti, se tu sai già chi è in vantaggio, giochi come se fossi in due, cioè se valuti se la tua mossa, se la mossa a tuo favore è meglio della mossa a sfavore di chi sta in vantaggio, oppure al contrario, se fare una mossa che magari non ti avvantaggia molto a te ma abbassa le possibilità di chi sta in vantaggio di vincere, fondamentalmente è come giocarle in due. Insomma, son pensieri un po' da stratega. Io sta roba qui non ci penso quando gioco, cioè nel senso non mi metto lì a dire ok, no, lui sta vincendo. Ma è normale, nel senso che, cioè, quello che voglio dirti è, fai la prima partita a Splendor, la prima partita di Splendor non fai altro che stare ad ascoltare il rumore che fanno le fish. Cioè ci giochi, sì, cioè ce le hai in mano. Ne parlano tutte di ste fish belle pesanti. Sì, perché se forse proprio soddisfazione ti danno. Poi sarà che io ho sempre giocato poco con le fish vere, cioè sì. Non... Quindi magari chi ha giocato, che so, d'azzardo, a poker, roba del genere, le fish magari è una vita che le usa. Ma quelle sono proprio fish pesanti. Cioè tu lo prendi e la cosa che pesa lì dentro sono le fish. Sono proprio pesanti. Poi quando ci giochi fanno click clack. Cioè proprio... E poi quando acquisisci una certa velocità nel giocare, praticamente senti un continuo click clack, click click click, queste fish che si infilano, che vanno, questo che le restituisce, l'altro che le prende, cioè quella è l'unica cosa che noti, è quella, queste fish che fanno avanti e indietro. Del gioco non te ne frega una secchia all'inizio, cioè, ti interessa solo di impilare queste fish, vederle che sono così belle. Quando vedi che c'è uno che semplicemente le impila tutte, sai, non a pile diverse, ognuna col suo colore, no? ma le mette tutte insieme, ti dà una noia. Dice, come le mette tutte insieme? E come fai a sapere a occhio subito immediatamente se hai tre bianche o no? Le guarda di profilo. Cioè, ecco, però all'inizio è quello. Dopo, cioè, è chiaro che è un gioco semplice, cacchio, cioè, o continui, cioè, o giochi con le fish e guardi la televisione giocando con le fish, o se no ti impegni, ecco. Però per essere un gioco facile, un fillerino, tutto quello che vuoi, effettivamente ti dico, state intelligenti, perché hanno tirato fuori da una cavolata di coso un gameplay che comunque ti stuzzica un minimo, cioè anche giocato oltre 10 partite. Tutti quelli che l'ho fatto vedere, se gli è piaciuto. Beh, quindi Spiel des Jahres meritato come nomination, sicuramente. Perché, infatti, no, guarda, non l'avevo inserito solo perché è francese come origine, e non avevo per niente visto su BGG l'esistenza di un'edizione tedesca. E tra l'altro io che vivo in Germania non l'avevo neanche vista, perché vi assicuro che in qualsiasi negozio tu vai non ce n'è neanche un account. Infatti guarda, secondo me questo è uno delle trappoline, tra virgolette. Cioè, secondo me c'è qualche distributore tedesco che informalmente l'ha preso, consentendogli quindi di partecipare al concorso. Ah, addirittura dichiari complotto, cioè te lo prendo solo per farti partecipare allo stile. Ma guarda che... non l'ho proprio visto, eh. Cioè, guarda che in effetti questa cosa qui, siccome è comunque un premio importante, non è come i premi nostri. Sì, è un premio che ti cambia, sì, la quantità di venduto. Ci sono diverse case che giocano il timing dell'uscita, certo, di certi titoli proprio per partecipare. Sì, prima o dopo, a seconda, sì, di quanto è minaccioso lo Spiel des Jahres di quell'anno. Perché, per esempio, secondo me, io quando ho visto uscire Camel Up o Camel Cup, che si chiami, della Eggert, ho detto, questo qua l'hanno tirato fuori per lo Spiel, eh. Sì, l'hanno pensato a misura dello Spiel des Jahres. Sì, l'hanno pensato a misura e a tempo, anche perché la Eggert, che, cioè, è una casa che di solito è abbastanza standardizzata, no, nel suo piano, e normalmente fa per Essen le due uscite, i due titoloni, no? E il massimo dell'energia li butta su quelli. Invece questo qui, secondo me, è un titolo molto molto ruffiano, o come dicono giù, è un po' paraculo, no? Perché è un titolo che effettivamente, se lo sono giocato con l'attenzione alle cose giuste, no? Cioè, è un giochino, anche quello, un gioco semplice, cioè c'è tante analogie, se vuoi, con Splendor. È un gioco alla base semplicissimo, perché in fine dei conti è una corsa di cammelli, ti dà di a caso e devi scommettere su chi hai da primo. Però ci hanno infilato dentro due meccanichette per renderlo meno banale del normale, no? Sì, chi punta per primo c'ha un reward maggiore. Esatto, ma poi l'hanno mescolato, nel senso che ci sono puoi fare le puntate di mash o le puntate di fine gara. Sì. E quindi già poi ci hanno messo dentro un paio di tesserine che puoi piazzare sul percorso, che danno un po' di frizzantino alla gara, e nello stesso tempo cambiano anche, ti danno una terza opzione di gioco, no? Oppure tiri il dado per prendere la moneta. Quindi alla fine ti danno un pochino di scelta, un pochino di cose. In sé è un gioco che potevi fare con quattro tombolini e venderlo a 7 euro. Però in realtà l'hanno curato molto graficamente, ci hanno messo la pianta. C'è questa questa meccanica che se il cammello va sopra, poi tu muovi tutte e due. Sì, bravo, esatto. Sì. No, questa è una meccanica intelligente, mi hanno detto che in realtà già usata. In realtà già usata, io non l'avevo ci dico, ti dico anche da chi, dove. Da chi? Rainer Knizia, grande dottore. In Schildkröten Rennen, se volete cercarlo su BGG, è un gioco sulla corsa delle lumache, quindi più o meno potete immaginarvi. Allora, però con i cammelli funziona molto meglio, poi ti assicuro che vedresti no, i cammelli, cavolo, come dice Berna, i cammelli che si ingroppano. No, però le lumache ogni tanto le vedi che sono una sopra l'altra, invece che i cammelli non ha senso. Bravo, no, Rainer. Cioè, è più a tema la lumaca, effettivamente. Cioè, è più a tema reale. Però i cammelli funzionano benissimo. Sì, perché no, la sagoma bene. Aiuta a farli mettere uno sopra l'altro. Guarda, l'altra sera ci abbiamo giocato in un gruppetto, ne eravamo in 5. Ti assicuro, cioè, se ci pensi a mente fredda, uomo analysis paralysis, cioè, ti rifiuti anche di cominciare a giocare. Ma ti metti lì a giocare, alla fine eravamo lì, cioè, ci sganasciavamo dalle risate. Sì, perché poi in effetti è vero, esce fuori il tiro che non ti aspetti, sì, cambia tutto, non l'avevi calcolato, succede la cosa più improbabile del mondo. Ma poi anche lì tutto quello che ti eri calcolato. Quindi. Sì, è un cambolesco, sì, perché cioè questo meccanismino stupidino qua basico del chi monta in groppa a chi, significa che il cammello che è ultimo, cioè ultimo sparato, è ultimo a 6 caselle dal primo, può nell'arco di 2 colpi di dadi diventare primo, perché se esce prima il suo dado, lui, per dire, ha 3 caselle da quello che si trova davanti, lui esce fuori il suo dado, fa 3 caselle, 1, 2, 3, zompa in collo a quello che gli è davanti, poi rimane solo più quel dado, poi e... se combinazione esce quello che è davanti a lui, fa 3 caselle, 1, 2, 3, zompa in testa quello che c'era prima, siccome quello che è in cima alla pila, certo, sì, è il primo, quindi succede che lui che era l'ultimo improvvisamente è diventato il primo, perché c'è stata questa combinazione clamorosa di ordine di uscita dei dadi, no? Sai dove succede? Allo stesso modo quando torni indietro invece vai in basso, no? Sì. No, ma poi perché poi ci sono anche queste due tesserine speciali, c'è una tesserina speciale che quando finisci su quella tessera lì torni indietro e ti sgroppi, sì. Cioè, invece di ingropparti quello che c'è che di dietro finisci sotto. Ah, ok, l'ultimo, sì. Okay. È lui che ingroppa a te. Esatto. C'è questo meccanismini qua. Ma a parte questo, il bello sono i cammellozzi di legno. Cioè, sono proprio 5 cammellozzi di legno. Cioè, non te puoi fare entusiasmare sta roba qua, ti prego. Ma guarda che, cioè, dove ti danno? 5 cammellozzi di legno. Invece di darti, potevano darti dei dadini piccolini, ti danno dei dadozzi di legno, e invece di dire, li tiri fuori da un sacchetto, ti hanno fatto una piramide di cartone con un meccanismo ad elastico, che quindi tu, cioè, i dadi li giri la piramide, violi all'interno della piramide di cartone, li piazzi sul tavolo, schiacci questo meccanismo ad elastico e ti esce fuori solo un dado. Mi dirai, è una cavolata. Ti conferma una cavolata, ma sì, è come se in un gioco di dadi ti regalano una torre tira dadi. Sì, è vero. Ok? Allora dici, cacchio, cioè, in fin dei conti, guarda che Amerigo, quest'anno, che è una cacata di gioco, l'unica cosa bella che aveva era la torre dei dadi. Punto. Vogliamo parlare di Carrara? Dimmi? Vogliamo parlare allora della meccanica, quella lì della slot machine di Carrara? Quella che spingi, quella che spingi e fai cadere i... Ah no, di... No. Sì, è di cosa? No, sì, non è di Carrara, scusa, chiamato, di... Sì. Dai, quelli che devi costruire la strada. Di Appia. Via Appia. Via Appia, sì. Via Appia, sì. No, è bene, anche quello lì. Quello... Però, allora, c'è poco da fare. Cioè, i giochi da tavolo, una loro componente di... Che attira. Di che gioco, diciamo, sì. Cioè di gioco, ma nel senso di giocattolo, ce l'hanno. Ok, ce la possono avere. Certo. Ma guarda, stiamo assistendo da almeno 2 anni a una toyfication, come dicono gli americani, tremenda dei giochi da tavolo. Cioè, i giochi da tavolo stanno andando verso, a partire da questa sorta di nuova, per così dire, meccanica del tira in tempo reale, cioè quindi del gioco in tempo reale che sta spopolando, ma in generale la toyfication sta avanzando. Ma guarda, secondo me è un segno, un ritorno un segno agli anche 80, migliore. Tra l'altro è un segno anche migliore, nel senso, sì, che esatto. Cioè, se tu lo dici, lo pensi in questo senso, dici vabbè, li stanno semplificando, li stanno diventando più giochetti che altro. Invece no, secondo me è un frutto dell'evoluzione, perché lo vedi proprio palesemente. Adesso ci sono delle occasioni in cui tiriamo fuori dei titoli che magari che ci avevamo persi, no? Tiri fuori il titolo del 2004 che ti eri perso, quell'anno lì era una figata, lo tiri fuori, lo guardi, cioè appena apri proprio la scatola vedi subito che è datato, sì, sulla grafica, sul sì, componentistica, sì, tutto anche proprio il manuale, come è strutturato il manuale, bravo. Ma perché? Perché si è proprio evoluta, cioè adesso rispetto a 4 anni fa la cura grafica che c'è nella preparazione di un gioco media si è alzata di 4 punti. È il frutto della competizione, cioè ci sono più case editrici e c'è anche un pochettino, secondo me, più di fetta da spartire, secondo me, però è solo un intuito, non ho dati. Però sì, secondo me ci sono più giocatori anche. Ma poi c'è poco da fare, cioè escono tantissimi titoli, sì, devi emergere. Sì, esatto. Francamente, cioè, se tu presenti una griglia tipo Excel è un pochino più difficile che ti noti, no? Vabbè, solo se sei la Splatterspell non riesci a fare, sì, della roba a vendere anche a costi assolutamente fuori luogo, sì, facendo praticamente vendendo dei prototipi. Però io ti dico questo. Spellen, che... insomma, ti vende il gameplay, cioè ti vende il playtest fondamentalmente. Sì. Ma non è vero neanche più per la Splatter Spellen. Perché adesso io sì, la Splatter la conosco perché sì. Il buon Axelot è un loro fan e c'ha tutto. E quindi me li ha proposti. Sì. Però la differenza, io ho giocato a Bass della Splatter Spellen. Sì. Bass è imbarazzante sì. dal punto di vista grafico. Ma perché grafico, Duck no? Duck, lì, come si chiama? Flying Duck. Sì, vabbè, ma io ti propongo lui e ti propongo anche Rodden Bots, che è un altro grosso. Sono due giochi che sono imbarazzanti, nel senso, se li sono disegnati loro, sì, cioè sì, ci sì. sono le tesserine proprio disegnate ma male, cioè se mi metto lì e disegno io gli omini su una tesserina e poi li stampo, quella è la tesserina del gioco. Proprio un paciughino, no? Fatto così a mano, dici, sai, poteva essere tipo... veramente la bozzetta che fai per dire adesso ci giochiamo qua sopra, e adesso poi si sono messi lì a ridere e hanno detto adesso ci facciamo giocare tutti qua sopra. Duck Dealer si chiama dello Sport Spam. Duck Dealer l'ha comprato, non l'ha ancora provato, urando come no. Cioè il gioco magari è bello, non ci ho mai giocato, se è dello Sport Spam non c'è un motivo, ma ti giuro la grafica fa cagare. Però ultimamente, per dirti, già io ti dico un Great Zimbabwe, sì. Dirai, la base lo capisci che è loro, perché la base è una griglia, sì, è una griglia. Sì, sì. Però si sono messi a fare le carte sono artistiche. Cioè se guardi le carte di Great Zimbabwe dici, cacchio, cioè, ma questo qua l'hanno fatto fare a un altro. Sì, l'hanno delegato. l'hanno presa da un'altra casa, c'erano già delle carte fatte a tema Africa e le prendiamo noi. Perché veramente, cioè, sembrano, cioè, sono belline, ecco, sì. Ed è la prima volta che mi permetto di unire l'aggettivo bellino a un componente. Poi nel complesso il gioco rimane medio-basso, perché c'ha la griglia, ma quello lì, cioè, io ti ricordo che la maggior parte dei giochi della Splatter l'ho giocati a casa di Axelot con lui che ha speso non so quanto da Speed Materia per comprare dei pezzi sostitutivi. Per renderli più gradevoli. Ma, sì, ma poi fra parentesi, partendo da una base di costo, cioè la Splatter Spellen costa, sì, cioè costano un casino i giochi loro. Ma perché loro sono snob, hanno scelto un mercato ma di brutto, cioè, ma di brutto. Ma lì sta l'intelligenza, ci sta provando anche la Spielworks, che è un'altra casa ultimamente che si sta indirizzando in quel filone lì. Cioè sono titoli che dicono, noi facciamo dei titoli ricercati, lo ammetto, cioè avendo dei giocati all'inizio un po' di controvoglia, ma ammetto che sono dei titoli che hanno un peso specifico effettivo, cioè meritano. Madonna, l'unica cosa è che sono anche un po' snob, perché dicono, ma io francamente me ne frego di curare bene la grafica, me ne frego di curare i costi, il rapporto costo contenuti, se lo vuoi lo compri, se non lo vuoi non lo compri, e sanno che, cioè, e soprattutto non hanno preso accordi con nessuno per fare, sì, per fare delle stampe. Ah, tu e dici così, per fare anche per distribuzione maggiore, quindi si indirizzano proprio verso, hanno scelto il loro target. Il mio target è giocatore heavy, cioè gamer, e è un giocatore collezionista. Se ci fai caso, quelli che fanno la serie Keyflower, cioè la serie Key, avevano preso lo stesso filone. Ultimamente con Keyflower e con qualche cos'altro hanno preso degli accordi per la distribuzione maggiore. Keyflower proprio bello. Io non sono non sono mica convinto che ci abbiamo guadagnato. Ah, ok. Dal punto di vista economico. Okay. Non sono convinto, perché io so che tutti gli altri titoli andavano tutti esauriti. Sì. Cioè, quello che stampavano diceva, io stampo, non so, 1000 copie, e quelle 1000 le vendevano tutte. Keyflower, tutto sommato, non ha avuto mai nessuna difficoltà a trovarlo. È un bel giochino. Distribuito di massa, effettivamente dici, quel gioco lì è indietro graficamente rispetto agli altri, sì, perché è uscito dalla nicchia. Allora a questo punto, cioè, se non è più un gioco solo per gamer tra virgolette, ma deve essere bello, deve essere, è soggetto alle stesse regole, certo, di tutti gli altri, certo. Forse un'eccezione rispetto a questa cosa sono i giochi per bambini, dove penso rispetto a giochi di qualche anno fa il livello qualitativo è sempre stato medio alto per, sì, i giochi per bambini, no? E penso alla ABBA piuttosto che... Però anche lì si stanno inventando cose. Tra l'altro vorrei citare il gioco di Carlo, visto che è stato... Sì, che peccato che non è Spiel des Jahres nominee. Il pezzo forte è sicuramente il vulcaneino, perché è veramente la gimmick geniale, diciamo, tra virgolette, quello che attira l'attenzione. Infatti, esatto. Io qualche anno fa, cioè un paio di anni fa, avevo comprato il gioco... della stella, che è poi un'evoluzione di altri titoli, nel quale c'è praticamente una sorta di bastoncino di ferro sospeso, e ci sono tutta una manata di bastoncini che hanno in mezzo un piccolo pezzettino di magnetico. E tu devi cercare di costruire una piccola rete di questi pezzettini. Vabbè, a voce è difficile, cioè solo sì. Un attimo. Comunque, morale, un gioco di equilibrio, queste cose, cioè, l'hanno studiato come componenti. Cioè, è proprio bello vederlo. Poi mio figlio non ci ha voluto mai giocare. Io l'avevo preso per lui, alla fine ci ho fatto 3 partite io, ci ho fatto le foto, e lui, tutte le volte che lo tiro fuori, me lo mette via. Però, come componenti, mi è sembrato geniale. E quella è un po' lì, diciamo, vabbè, comunque siamo partiti da un tema incomprensibile. Non è vero, non è incomprensibile, semplicemente è un po' da game designer e avete fatto bene a tarparmelo da subito e ci siamo evoluti altrove, ma ci sta, insomma. Come la chiamiamo sta puntata? Non la chiamiamo, la puntata senza nome. La puntata divagazioni sul tema, piuttosto che... No, vabbè, si parla di tante cose. Si parte da quello, lo scriveremo, che si parte da quello, e andiamo tutt'altro. Quindi, cioè, se vi annoiate nel primo pezzo, andate avanti. Okay, scriveremo così. D'accordo, vai. Tanto non abbiamo parlato nemmeno un minuto di questa cosa dell'emergent gameplay, che invece a me mi sta molto a cuore, perché secondo me è il cuore del game design. Però vabbè, la prossima volta facciamo la super cazzola. Che merda. Va bene, ok, siamo arrivati in fondo, niente, salutiamo tutti, ciao da Fabio, Stefano e Federico, ciao ciao ciao ciao, ciao.